Avevamo la precedenza su tutti i principi stranieri, potrei darvene 100 esempi. Quando, alla cerimonia funebre per Monsieur, la principessa di Croix volle inginocchiarsi accanto alla mia trisavola, questa le fece duramente notare che non aveva diritto al cuscino. Lo fece portar via dall'ufficiale di servizio e sottopose la questione al re, che ordinò a Madame de Croix di recarsi a casa di Madame de Germain per porgerle le sue scuse. E quando il duca di Borgogna venne da noi, accompagnato dai suoi scudieri con la frusta alzata, ottenemmo dal re di fargliela abbassare. So che è poco elegante che uno parli delle virtù dei suoi, ma è ben noto che i nostri, nell'ora del periglio, sono sempre stati in prima fila. Il nostro grido d'armi, quando abbiamo lasciato quello dei duchi di Brabante, è stato «passavanti!», cosicché, tutto sommato, è abbastanza legittimo che il diritto d'essere ovunque i primi, che avevamo rivendicato per tanti secoli in guerra, l'abbiamo poi ottenuto alla corte. E lì, per Bacco, ci è stato sempre riconosciuto. Vi citerò come ulteriore prova la principessa di Baden. Poiché aveva perso la testa sino a voler disputare la precedenza a quella stessa duchessa di Guermont di cui vi parlavo poco fa e aveva voluto entrare per prima dal re, approfittando d'un attimo d'esitazione, forse della mia antenata, sebbene non fosse il caso d'averne, il re esclamò con forza: «Entrate, entrate, cugina! Madame de Baden sa fin troppo bene quel che vi deve!» E questo privilegio lo aveva come duchessa di Guermont, pur essendo lei stessa di nascita abbastanza grande, dal momento che, per parte di madre, era nipote della regina di Polonia, della regina d'Ungheria, dell'elettore palatino, del principe di Savoia Carignano e del principe di Hannover, in seguito re d'Inghilterra. «Mecenas atavis, edite regibus», disse Brichot, rivolgendosi al signor di Charlus, che rispose a quella cortesia chinando leggermente il capo. «Come dite?» chiese Madame Verdurin a Brichot, nei cui confronti avrebbe voluto cercare di riparare alle frasi di poco prima. «Parlavo, Dio mi perdoni, di un dandy che era il fior fiore dell'alta società». Madame Verdurin aggrottò le sopracciglia. «All'incirca nel secolo d'Augusto, Madame Verdurin, rassicurata dalla lontananza di quell'alta società, assunse un'espressione più serena. Un amico di Virgilio e di Orazio, i quali spingevano la piaggeria sino a gettargli in faccia le sue ascendenze, più che aristocratiche, regali. Parlavo insomma di mecenate, un topo di biblioteca che era amico di Orazio, di Virgilio, di Augusto. Sono sicuro che il signor di Charlus sa perfettamente e sotto ogni punto di vista chi fosse mecenate». Guardando graziosamente Madame Verdurin con la coda dell'occhio, poiché l'aveva sentita dare appuntamento a Morel per 2 giorni dopo e temeva di non essere invitato, «credo», disse Charlus, «che mecenate fosse una specie di Verdurin dell'antichità». Madame Verdurin non poté reprimere che in parte un sorriso di compiacimento. Si avvicinò a Morel. «È simpatico», gli disse, «l'amico dei vostri genitori. Si vede che è un uomo istruito, ben educato. Andrà bene nel nostro piccolo gruppo. Qual è il suo indirizzo di Parigi?» Morel mantenne un altezzoso riserbo e si limitò a chiedere di fare una partita a carte. Madame Verdurin pretese prima un po' di violino. Tra lo stupore generale, il signor di Charlus, che non parlava mai delle sue grandi doti, accompagnò con purissimo stile l'ultima parte, inquieta, tormentata, schumaniana, ma insomma anteriore alla sonata di Franck, della sonata per violino e pianoforte di Fauré. Intuì che avrebbe dato a Morel, meravigliosamente dotato per il suono e il virtuosismo, esattamente quanto gli mancava, cultura e stile. Ma pensai con curiosità a quel che connette in uno stesso uomo una tara fisica e un dono spirituale. Charlus non era molto diverso da suo fratello, il duca di Guermont. Un attimo prima, ed era raro, aveva persino parlato un francese cattivo quanto il suo. Rimproverandomi, senza dubbio perché raccomandassi caldamente Morel a Madame Verdurin di non andare mai a trovarlo, e poiché io adducevo motivi di discrezione, aveva replicato: «Ma dal momento che sono io a chiedervelo, io solo potrei formalizzarmi». Avrebbe potuto dirlo il duca di Guermont. Il signor di Charlus, insomma, non era che un Guermont. Ma era bastato che la natura squilibrasse il suo sistema nervoso in misura sufficiente perché in luogo di una donna egli prediligesse, a differenza del duca suo fratello, un pastore di Virgilio o un discepolo di Platone, e subito delle qualità ignote al duca di Guermont e non di rado legate a uno squilibrio del genere, avevano fatto di Charlus un pianista delizioso, un pittore dilettante non privo di gusto, un conversatore eloquente. Lo stile rapido, ansioso, incantevole con cui il barone suonava il brano schumanniano della sonata di Fauré, chi avrebbe potuto scoprire che aveva la sua corrispondenza, non osiamo dire la sua origine, in zone affatto fisiche, nelle anomalie nervose del signor di Charlus? Spiegheremo più avanti l'espressione anomalie nervose e per quali ragione un greco del tempo di Socrate, un romano del tempo d'Augusto, potevano essere quel che sappiamo pur rimanendo uomini del tutto normali e non uomini-donne, quali ci capita oggi di vedere. Oltre a reali disposizioni artistiche non messe a frutto, Charlus aveva, assai più del duca, amato la loro madre, amato sua moglie, e anche dopo anni, se gliene parlavano, gli spuntavano delle lacrime, ma superficiali, come la traspirazione d'un uomo troppo grasso, la cui fronte per un niente si imperla di sudore. Con la differenza che all'obeso si dice «avete caldo, eh?», mentre le lacrime altrui fingiamo di non vederle. Noi, cioè la buona società, perché il popolo si preoccupa se vede piangere, come se un singhiozzo fosse più grave di un'emorragia. Grazie all'abitudine di mentire, la tristezza che seguì la morte di sua moglie non escludeva in Charlus una vita che non le era certo conforme. Più tardi commise persino l'ignominia di far capire che, durante la cerimonia funebre, aveva trovato il modo di chiedere nome e indirizzo al chierichetto. Ed era forse vero. Finito il pezzo, mi permisi di sollecitare qualcosa di Franck, il che parve provocare una tale sofferenza a Madame de Cambremer che preferì non insistere. «Non è possibile che vi piaccia», mi disse. Chiese invece Fête di Debussy, che fece gridare «Ah, è sublime!» sin dalla prima nota. Ma Morel s'accorse di conoscerne solo le battute iniziali e per monelleria, senza alcun intento mistificatorio, attaccò una marcia di Meyerbeer. Disgraziatamente, poiché fece un brevissimo intervallo e non diede nessun annuncio, tutti credettero che fosse ancora Debussy e si continuò a gridare «Sublime!», rivelando che l'autore non era quello di Peleas, ma di Roberto il Diavolo, Morel diffuse un certo gelo. Quanto a Madame de Cambremer, non ebbe quasi il tempo di provarlo, perché aveva scoperto uno spartito di scarlatti e vi si era gettata sopra con un impulso da isterica. «Oh, suonate questo! Ecco, questo è divino!» andava gridando. E tuttavia, di quell'autore lungamente disprezzato, da poco tempo promosso ai più alti onori, ciò che la marchesa nella sua impazienza febbrile aveva prescelto, era uno di quei pezzi dannati che così spesso vi hanno impedito di dormire e che una lieva impietosa ricomincia infinite volte nell'appartamento contiguo al vostro. Ma Morel ne aveva abbastanza di musica e poiché desiderava giocare a carte, Charlus, per essere della partita, avrebbe voluto un whist. «Ha appena detto al padrone d'essere un principe», confidò Schi a Madame Verdurin. «Ma non è vero, appartiene semplicemente a una borghesia di piccoli architetti. Voglio sapere cosa dicevate di mecenate». «Oh, che divertente», riprese Madame Verdurin, rivolgendosi a Brichot, con una gentilezza che inebriò l'erudito. Così, per brillare agli occhi della padrona e forse anche ai miei, ma a dire il vero, signora, Mecenate mi interessa soprattutto perché è il primo rispettabile apostolo di quel dio cinese che conta oggi in Francia più seguaci di Brahma e dello stesso Cristo, il potentissimo dio Jean Monfou. Madame Verdurin non si limitava più in questi casi a sprofondare il viso tra le mani, si abbatteva di schianto con la precipitazione degli insetti cosiddetti effimeri sulla principessa Scherbatov. Se questa era abbastanza a tiro, la padrona le si aggrappava all'ascella, vi conficcava le unghie e per qualche istante occultava la testa come un fanciullo che gioca a nascondino. Dissimulata da quello schermo protettivo, si presumeva che ridesse fino alle lacrime e poteva smettere completamente di pensare come quelli che, dovendo dedicarsi a una preghiera abbastanza lunga, hanno la saggia precauzione di seppellirsi il volto nelle mani. Madame Verdurin imitava costoro quando ascoltava i quartetti di Beethoven, per mostrare che li considerava alla stregua d'una preghiera e insieme per non far vedere che dormiva. «Parlo seriamente, signora», aggiunse Brichot. «Reputo eccessivo oggi il numero delle persone che passano il tempo a considerare il proprio ombelico come se fosse il centro del mondo. In buona dottrina non ho nulla da obiettare a qualsivoglia nirvana che tenda a dissolverci nel grande tutto, il quale, come Monaco e Oxford, è molto più vicino a Parigi di Asnières o di Bois Colombes. Ma non è da buoni francesi e nemmeno da buoni europei, nel momento in cui i giapponesi sono forse alle porte della nostra Bisanzio, che degli antimilitaristi socializzati discutano gravemente sulle virtù cardinali del verso libero». Madame Verdurin stimò di poter abbandonare la spalla martirizzata della principessa e lasciò riapparire il proprio volto, non senza fingere di asciugarsi gli occhi e riprendere due o tre volte fiato. Ma Brichot voleva che io avessi la mia parte al banchetto e, avendo imparato dalle sessioni di laurea che gli presiedeva come nessun altro, che non si lusingano mai così bene i giovani come facendogli la predica, trattandoli con importanza e facendosi trattare da reazionari, «non vorrei bestemmiare gli dèi della giovinezza», continuò, gettando su di me lo sguardo furtivo che un oratore concede di sfuggita a qualcuno presente fra il pubblico di cui cita il nome. «Non vorrei essere condannato come eretico e relapso nella cappella malarmeana, dove il nostro nuovo amico, come tutti alla sua età, ha certamente servito la messa esoterica, almeno come chirichetto, mostrandosi deliquescente o rosacroce. Ma davvero, ne abbiamo visti troppi di questi intellettuali che adorano l'arte con la A maiuscola e che quando non gli basta più alcolizzarsi con Zola si fanno delle iniezioni di Verlaine. Diventati eteromani per devozione baudelairiana, non sarebbero più capaci dello sforzo virile che la patria, un giorno o l'altro, può pretendere da loro, anestetizzati come sono dalla grande nevrosi letteraria, nell'atmosfera calda, snervante, greve di tanfi malsani d'un simbolismo da fumeria doppio. Incapace di fingere anche solo un'ombra d'ammirazione per l'insulsa e variopinta tiritera di Brichot, mi girai verso Ski e gli assicurai che sbagliava di grosso circa la famiglia a cui apparteneva il signor di Charlus. Mi obiettò che era sicuro del fatto suo e aggiunse che io stesso gli avevo detto che il suo vero nome era Gandin, Le Gandin. «Vi ho detto», replicai, «che Madame de Cambremer è sorella d'un ingegnere, il signor Le Grandin. Non vi ho mai parlato del signor di Charlus. Fra lui e Madame de Cambremer c'è, quanto a nascita, lo stesso rapporto che fra il Grand Condé e Racine». «Ah, credevo», disse Ski distrattamente, senza scusarsi del suo errore, più che di quello con cui poche ore prima ci aveva quasi fatto perdere il treno. «Contate di trattenervi a lungo sulla costa?» chiese Madame Verdurin a Charlus, nel quale presentiva un fedele che paventava di veder tornare troppo presto a Parigi. «Dio mio, non si può mai sapere», rispose Charlus in tono nasale e strascicato. «Mi piacerebbe rimanere fino alla fine di settembre». «Avete ragione», disse Madame Verdurin, è il periodo delle belle tempeste. Per la verità non sarebbe questo a farmi decidere. Sto troppo trascurando da qualche tempo l'Arcangelo San Michele, mio patrono, e vorrei risarcirlo trattenendomi sino alla sua festa, il 29 settembre, all'Abbazia del Monte. «Vi interessano davvero quelle storie?» chiese Madame Verdurin, che sarebbe forse riuscita a far tacere il suo anticlericalismo ferito se non avesse temuto che un'escursione tanto lunga facesse staccare per 48 ore il violinista e il barone. «Siete forse affetta da sordità intermittente?» rispose con insolenza Charlot. «Vi ho detto che San Michele è uno dei miei gloriosi patroni». Poi, sorridendo con estatica benevolenza, gli occhi fissi nel vuoto, la voce resa più acuta da un'esaltazione che mi parve ancor più che estetica religiosa. «È così bello all'offertorio, quando Michele è in piedi accanto all'altare, con la sua veste bianca e con le mani fa ondeggiare un turibolo d'oro e c'è una tale profusione di profumi che l'odore ne sale fino a Dio». «Ci si potrebbe andare in compagnia», suggerì Madame Verdurin, malgrado il suo orrore per la pretaglia. «Allora, al momento dell'offertorio», riprese Charlot, il quale, per altre ragioni, ma allo stesso modo dei buoni oratori alla camera, non replicava mai a un'interruzione e fingeva di non averla sentita, «sarebbe meraviglioso vedere il nostro giovane amico palestrineggiare ed eseguire magari un'aria di Bach. Impazzirebbe di gioia, e il buon abate anche, ed è il più grande omaggio pubblico almeno, che io possa rendere al mio santo patrono. Che edificazione per i fedeli! Ne parleremo subito al giovane angelico della musica, che è soldato come San Michele».